Il punto di Stefano Folli. Beppe Grillo è andato da Vespa a Porta per convincere gli italiani della sua, diciamo così, normalità, per rassicurarli che lui non è il nuovo Hitler, come dice Berlusconi, un'accusa che evidentemente lo infastidisce perché pensa che possa alienargli le simpatie di una certa fetta di opinione pubblica, quella che non va ai suoi comizi, non legge il blog ed è spaventata dalle sue intemperanze verbali. Tutto logico. Però così facendo Grillo paga un prezzo anche per l'abilità dell'intervistatore. Non è detto che questa normalità sia quello che i suoi elettori vogliono dal loro leader, che sia l'immagine più adatta a un personaggio che ha costruito una specie di mito populista di se stesso come vendicatore degli indifesi e distruttore dei potenti. Questa dimensione che si pretende eroica non sempre va d'accordo con la normalità, con la necessità di rispondere alle domande, con il dover spiegare senza riuscirci come e con quali mezzi saranno realizzate le promesse. Senza dubbio Grillo prenderà i suoi voti, magari anche di più, ma ieri sera si è capito perché non ama le interviste.